dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferruccini. E che, cioè, hai capito? Non è che possiamo stare qua a cincischiare quando c'è il derby, cioè, hai capito? Possiamo stare qua. Possiamo dire che il derby è una delle partite più tristi della giornata? No? Scusa, Luca, non è che devi per forza parlare perché non c'è il derby di Genoa. No, hai ragione, scusa, c'è Parma-Lazio, è vero. Parma-Lazio è più triste del derby. Diciamolo, diamo tutte le notizie che abbiamo da dire in questo momento, diamo subito i risultati: 0-0 per quanto riguarda Torino-Juventus. Basta. No, come basta? No, ci sono anche altre. Sì, c'è anche Parma-Lazio, 0-0 anche quello. Sembra la partita delle torte questa giornata. Quindi una torta a Torino fra Torino e Juventus, una torta a Parma fra Parma e Lazio. Mentre le altre partite sono un po' più movimentate. Pochi istanti fa il Genoa è passato in vantaggio sul Chievo. Il Palermo vince praticamente dall'inizio 1-0 sull'Inter. La Roma sta dilagando sul Siena 4-0 con 3 gol di Osvaldo, che non doveva giocare. E la Fiorentina sta dilagando sulla Sampdoria a Genova 3-0 della Fiorentina, pochi istanti fa ha segnato il 3-0 Aquilani. Che non so se essere teso o no. No, guarda. Possiamo far finta di niente. È una di quelle partite in cui alla Juventus fa bene il pareggio, al Torino va bene il pareggio, perché bisogna rischiare di perdere una partita che ti va bene il pareggio? Pareggiano 0-0. Sì, no, però stiamo sulla notizia, stiamo su quello che sta accadendo in campo, anche se fuori sta succedendo di tutto, ed sì, è per questo che noi alle 18 daremo ovviamente la linea allo speciale per quello che sta accadendo e quello che è accaduto quest'oggi a Roma, sia per quanto riguarda il governo, ma sia quello che è successo fuori. In piazza, insomma, esatto, davanti a Palazzo Chigi, con la sparatoria che ha coinvolto due carabinieri, è stato arrestato lo sparatore. Questo accadrà però dalle 18. Noi interromperemo ovviamente la trasmissione. Nel frattempo, in questa trasmissione vi racconteremo tutto quello che sta accadendo. E per il momento, cioè, se c'è qualcuno che è veramente preoccupato, è sicuramente Stramaccioni. Ma sì, insomma, relativamente ormai è anche un po' rassegnato. Rassegnato. Ma sì, dai, adesso non è che possiamo, in questo caso. Tra l'altro, proprio in questo momento l'Inter sbaglia un gol quasi fatto in questo passaggio. Era Alvarez ha tirato da fuori un tiro da circa una trentina di metri che supera di poco la traversa. Poi di nuovo Alvarez entra in area sulla destra, ancora lui la mette sopra la traversa. Diciamo, in questo momento, per gli appassionati di palla sopra Alvarez la traversa, contro tutti. Sì, Alvarez sopra le traverse, Se uno è un fan dei tiri sopra la traversa, si sta divertendo tantissimo in questo momento. È pronto per il libro 3 metri sopra la traversa. Esatto, ma anche 3 centimetri sopra la traversa nel caso specifico. In questo passaggio. Stavo notando che l'Inter nelle ultime 5 partite. Attenzione! Ancora una volta, però, il Palermo vicinissimo al gol, nulla di fatto. Stavo notando che l'Inter nelle ultime 5 partite ha fatto 3 punti. Ecco. Cioè, per dire, il Parma ne ha fatti 5, e il Genoa ne ha fatti praticamente 6. Cioè, è una delle squadre messe per. Solo il Pescara, Pescara e Torino hanno fatto meno punti dell'Inter nelle ultime 5 partite. Senti, c'è stata una Mauri che stava entrando, ovviamente, dentro l'area contro la Lazio da solo. Cioè, c'era davanti un giocatore ovviamente della Lazio, e ho visto la Mauri che tutti quanti conosciamo noi bianconeri. La Mauri storico. Non quello del Palermo, quello veramente storico. Quello bianconero, insomma, cioè praticamente gli hanno portato via la palla come un bambino, nulla di fatto, anche in questo caso. Però torniamo al vero dramma di questa giornata calcistica. Calcistica. Permetto di dire calcistica come dramma, per non usare termini a casaccio, cosa che in queste giornate si usano spesso in queste situazioni. Bisogna stare attenti alla terminologia, perché le parole sono importanti. Le parole sono pietre, qualcuno diceva, e quindi bisogna stare molto attenti. Sì, dramma, ma è calcistico, quindi potete anche dire tranquillamente chi se ne frega, no? Perché tanto è di quello che stiamo parlando. E poi, tra l'altro, vi dirò di più: il dramma è fantacalcistico, quindi non è neanche che si possa poi, come dire, no, cioè, fermarsi più di tanto a pensarla su questo fatto. Però la Gaza, tanto per dare un'idea, e sì, soprattutto diciamo, quello che è accaduto, il quotidiano di riferimento per il calcio, quello che viene venduto il quotidiano di riferimento per il calcio, ma soprattutto il quotidiano di riferimento anche per il fantacalcio, esatto. No, il quotidiano di riferimento per il fantacalcio, dove vengono dati i voti, ma soprattutto vengono date le informazioni, aveva messo fuori rosa oggi Osvaldo. Sì, è stato un bel gesto atletico da parte dei giornalisti della Gazzetta dello Sport. Non lo so se dietro ci sono pastette anche tra i giornalisti dello Sport. Cioè, sabato Osvaldo era dato indisponibile perché pare che avesse guarda, da veramente coliche di tutto, infatti, influenza, sì. Doveva fare anche l'antimorbillo, sì, doveva fare la lavatrice in casa perché, sì, assolutamente, aveva tutte queste cose, c'era pure questa roba qua che doveva stirare tutte le camicie, esatto. Quindi per questa domenica non doveva scendere in campo, era assolutamente indisponibile, attenzione, ed è andato, chi è fuori? Genoa stava per segnare il 2-0, siamo al 36esimo a Verona, Chievo 0 Genoa 1. Beh, morale della favola, Osvaldo invece in campo, e non solo, ha segnato ben 3 gol e non solo, si porta a casa il pallone, perché questa è la tradizione. Vabbè, di questa, questo che c'entra il fantacalcio, scusa, non c'entra niente, questa però, più atrica, come è, dire, è se un, proprio dobbiamo mettere qualche cosa, è un dato oggettivo, da quest'anno chi segna 3 gol si porta a casa il pallone, sì, vabbè, e fino a qua ci siamo, però si porta a casa il pallone, però di fatto che comunque quanti sono quelli che hanno fatto di tutto per me, cioè potevano mettere Osvaldo, potevano mettere Osvaldo, beh, 3 gol magari avrebbe cambiato anche la stagione per, sì, certi beh, sai, diventano determinanti soprattutto alla fine della stagione, vero? Allora, tendenzialmente possiamo fare un calcolo, 8 come minimo, 3 gol, sì, 3 gol 8 9 più 9 fa, cioè, 17 17 punti, ti cambia totalmente la squadra in questa domenica, insomma. Per fortuna nell'altro gol che è stato segnato dalla Mela, perché ricordiamo la Roma sta vincendo 4-0 sul Siena, nell'altro gol di la Mela l'assist è stato fatto da Totti, tifosi della Lazio, ma dai, è uno con cui gioca a calcetto, ma dai, non ci credo, ti giuro, ma stai scherzando? Non sto scherzando, ma non è possibile, ci hanno inquadrato uno con cui giochi a calcetto, si chiama Paolo, se volete vi dico anche il cognome, su Sky in questo momento hanno inquadrato le tribune dello stadio del Tardini di Parma, dove c'era un tifoso che stava smadonnando l'impossibile perché era stato sbagliato da un gol dalla Lazio, e vabbè, è uno con cui gioca a calcetto io ogni giovedì, sì, vabbè. E questo voleva dire, questo non è che adesso è un po' ombelicale, sì, però è un molto ombelicale, e tra l'altro non è che è diventato famoso per questo, no. Anche tu, quindi hai della gente che conosci, gente che va in televisione, esatto. Potrebbe essere così, tra l'altro il passaggio. Gli devo chiedere scusa perché mi aveva chiesto delle indicazioni sul ristorante a Parma, non glielo date, anzi, se c'è qualcuno che può darci delle indicazioni sul ristorante a Parma, noi glielo mandiamo direttamente, anche perché poveretto sta morendo. Chi è che c'è dietro le sbarre? Era l'allenatore del Palermo, che è stato espulso circa 10 minuti, un quarto d'ora fa, che è Sannino, si trova al di fuori del campo e praticamente dietro le recinzioni, e aveva le mani sulle sbarre metalliche, sembrava più in una cella di sicurezza che in uno stadio, invece è proprio lo stadio di Palermo. Intanto diamo i numeri di telefono, 800 24 00 24 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, questo per mandare invece gli sms, per sempre per loro, per quelli che sono veramente molto molto timidi, per quelli che proprio invece non vogliono a che fare con l'emittente ma vogliono avere a che fare con soltanto col computer, quindi diciamo sono più legati a Face, no, ci possono tranquillamente anche mandare dei messaggi su Face, dove abbiamo anche lì una nostra pagina, esatto. Bella, sapida, e diciamo con ben hai visto che sono, sì, arrivati a 1013, sì, 1013. Così, no, tanto per dire, abbiamo telefonato, abbiamo fatto un appello morigerato di sfondare questo muro dei 1000, che era un muro psicologico che bloccava un po' tutti quanti i nostri ascoltatori, superato brillantemente. Ovviamente noi adesso stiamo puntando direttamente in questa trasmissione a superare i 1100, ma però può anche darsi che questo non accada, sì. Tolto via invece questo argomento, mentre la Juventus sta buttando via palla come se nulla fudesse, cioè ormai non è convinta, posso dirtelo? Non è convinta, posso dirti, non è la Juventus che io ho visto, esatto, col Bayern ad esempio, assolutamente col Bayern al ritorno, cioè voglio dire, adesso vuoi negare, no? No, io non nego, campione niente, d'Europa, tra l'altro, mai Bayern, visto negare Bayern campione, esatto, d'Europa, cioè, voglio dire. aspetta che c'è ancora la remontata della remontata, gli spagnoli sai come sono, poi c'è anche Borussia, esatto, poi, no? Esatto. Cioè, Borussia Dortmund contro il Real Madrid martedì, mentre il Barcellona giocherà con il Bayern mercoledì. Ecco, detto questo, no, noi vi chiediamo a voi che avete un cellulare oppure che avete un sms e volete mandarci, quindi che usate lo stesso il cellulare al 3419 238 6666, mandate gli sms oppure gli 800 24 00 24, mandateci anche una telefonata, potete telefonare per chiedere che cosa, qual è l'argomento. Sì. Non diteci, non telefonateci per dire le cose che già sappiamo o che avete sentito in televisione, ma dice, noi sapete, voi sapete sicuramente, abbiamo un nuovo ministro dello sport. Esatto. Un nuovo ministro dello sport, quindi non è solo calcio in particolare è proprio il nuovo ministro dello sport, è proprio, esatto, è la seconda parte del titolo di Dai e Vai, no? Cioè in questo caso Dai e Vai e non è solo calcio, quindi è Josefa Idem, quindi in questa seconda parte il ministro dello sport. Bene, allora io, la domanda è questa, che domande fareste voi a Josefa Idem? Ma anche che proposte? Proposte adesso. Non esageriamo, solo domande? Se avete anche delle proposte, no? dei suggerimenti oppure dei consigli, cioè, da dove vorreste iniziare adesso per quanto riguarda lo sport, per tutto quello che c'è da fare sullo sport? Lei per esempio ha già dato delle indicazioni, la prima cosa che ha detto è che bisogna garantire ai bambini la possibilità di fare attività fisica, questo è proprio il minimo sindacale, cioè, voglio dire, però sai, è un problema che lei ha tirato fuori spesso anche nelle interviste, ricordiamo che ha fatto i giochi olimpici, ha fatto più giochi olimpici e nelle interviste dopo le sue vittorie diceva l'importante è lo sport giovanile, è un investimento per la società perché più sport si fa meno ci si ammala e quindi anche un costo sociale minore. Sì, però ecco, questo è il primo dato, sì, no? Poi dopo andiamo alle Olimpiadi, cominciamo le medaglie, cioè, tristezza, per favore, vai via, cioè ci intristiamo subito immediatamente in questo passaggio, perché poi l'Italia, come tu sai, gli italiani gran parte poi, sì, guardano lo sport, no? Sì. Cioè io faccio parte di quella categoria, sì, e vorrei tra l'altro tutelarla quella categoria. Ah, vuoi tutelare quelli che guardano lo sport? Sì, quelli che guardano lo sport, sì, si guardano bene, soprattutto sono quelli che guardano lo sport, sono quelli che si guardano bene da praticarlo in questo passaggio. Soprattutto, ecco, voglio dire invece una cosa per quelli che non guardano lo sport ma sentono lo sport, per quanto riguarda la Serie A, tutto tranquillo, non è successo niente, state sereni, cioè, se succede qualcosa vi avvisiamo. Tranquilli, fateci le domande, ma ve lo diciamo, cioè assolutamente non è successo nulla di interessante in questo momento. Stramaccione è incazzato come sempre, come negli ultimi, voglio dire, 22 partite, immagino. Come può essere un allenatore che nelle ultime 5 partite ha 4 sconfitte e una vittoria, quindi soltanto... Beh, ovviamente poi c'è anche tutto l'altro, lui non ha Seedorf alle spalle, sì. Tra l'altro io vorrei fare un appello, no, ovviamente a Moratti e a tutti quanti, sì, la dirigenza interista, quindi sì, prendete Zenga, per favore, prendete Zenga come allenatore. Branca, e così Paolino, andiamo, tutti questi. Sì, a tutti, prendete Zenga come allenatore, 10-100-1000 Walter Zenga. Zenga allenatore dell'Inter, guarda che poi è rischioso perché Walter Zenga quando ha allenato il Palermo, quando ha allenato, sì, il Catania, comunque, sì, ha ottenuto dei discreti risultati, è uno, sì, che sa motivare, ecco, la squadra. Io sono d'accordo, secondo me i discreti risultati sono quelli che servono in questo momento, ancora lì la Juventus in attacco ma nulla di fatto, c'era un bel cross che andava sulla sinistra ma però non è stato preso, al volo però, no, da, esatto, parte di Esamoa, era lui? No, era Vidal che ha messo il cross al centro dalla sinistra, nel frattempo poi la palla recuperata da Cerci che è corso sulla fascia. Queste sono le partite terribili in cui tu domini la partita, sì, no? In questo caso, e poi al novantesimo, esatto, pling, arriva Bianchi, pum, la butta dentro. In questo caso Bianchi, tra l'altro, un altro che non doveva giocare perché dicevano che era l'ultimo derby di Bianchi, in realtà poi doveva farselo in panchina, invece partito titolare, pronti via sin dall'inizio. Riassumiamo i risultati: il Genoa sta vincendo 1-0, Verona contro il Chievo, il gol di Boriello, Palermo Inter 1-0, il gol di Ilicic, Parma Lazio 0-0 come Torino Juventus, la Roma 4-0 sul Siena con tripletta di Osvaldo e gol di Lamela, la Sampdoria perde con la Fiorentina 3-0, il gol di Cuadrado, Ljajic e Aquilani. Questi sono i risultati della Serie A di oggi. E stasera Milan Catania. Giovanni, che è uno acuto. Giovanni uno, acuto. Non è, no, è uno acuto. Scusa. No, lui è di Treviso. Sì, però Giovanni, okay, dice: per come la state descrivendo voi, questa giornata di Serie A sembra divertente. Era dai tempi delle manette di Mu, Magic Mu, del Magic Mu e Sannino incarcerato. Ecco, insomma, sono quelle cose, cioè, nel senso che noi abbiamo creato un'atmosfera positiva di fronte a tutto quello che noi stiamo guardando in questo momento in televisione. Invece no, ti possiamo dire Torino-Juventus, una partita noiosissima. Dai e vai, non è solo calcio. È solo un gioco, Paul. Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh? cosa ti avevo detto? Cosa ti ave... No, dimmi che cosa ti avevo detto? Comunque cioè, era rigore, chiariamo no, che era rigore e inizieranno... No, non dire stupidaggini. No, allora, che cosa ti avevo detto? Ma avevi detto, queste sono le classiche partite, stiamo parlando ancora di Torino-Juventus, in cui si sta lì un po' tranquilli per 90 minuti, poi al 90esimo arriva il gol del Torino. E invece no, perché c'è stato un cross dalla destra di Cerci, poi doveva essere, credo, Jonatas in mezzo all'area che è entrato in scivolata, la maglia si è allungata tantissimo, tu non l'hai visto, però c'è stata una trattenuta di Barzagli, si è allungata tantissimo la maglia, poteva essere rigore. Lì a cincischiare adesso. Cerca di alimentare, no, un clima di serenità nel paese, no? Ti ringrazio, no? È un dato oggettivo, stavo descrivendo quello che stava succedendo. Dato oggettivo, cioè voglio dire, a volte, no, in qualche modo, cioè, cerca di rilassare, no, il paese in questo momento che ne ha bisogno di rilassatezza. Nel frattempo, tanto per darvi un'idea come era iniziata bene, sono stati alcuni tafferugli qua e là prima della partita di Torino-Juventus, ma poi dopo c'è stata invece una gara particolarmente interessante e divertente che è stata clonata direttamente dal derby di Madrid tra Real Madrid e Atletico. E cioè c'è stata una gara di... cos'è? Una corsa di 11 chilometri, era una... l'hanno chiamata la maratona dello stadio, dalla curva maratona, sono 11 chilometri in cui i concorrenti, i partecipanti sono stati divisi in due file, da una parte i tifosi del Granata, dall'altra i tifosi bianconeri, poi alla fine pare che abbiano vinto i tifosi bianconeri. No, quelle sono cose che succedono normalmente in area. Certo, quando la tira Chiellini la maglia non è rigore, no? Cioè, questo... solo che Chiellini è difficile tirarlo giù e quindi la maglia si allunga e si accorcia a seconda della situazione. Però la cosa interessante è vedere questa fotografia della partenza in cui ci sono proprio le tifoserie del Torino e la tifoseria Granata, la tifoseria bianconera, no? Divise, e che hanno fatto tutta la gara in parallelo, cioè 11 km in parallelo. La gara si chiamava Run Together, cioè corriamo insieme, però sono partiti divisi, da un lato guardando le immagini sulla destra i bianconeri, sulla sinistra i Granata, sono scattati qualche migliaia, poi dal punto di vista strettamente statistico hanno vinto i bianconeri, questo è il dato statistico. Di corsa allo stadio, tra l'altro. In questo passaggio, insomma, e quindi questo è la cosa importante. Dopo tu dovrai, Luca Cancellara, ci sei? È in questo passaggio? Ero un po' distratto. Dove sei? Arriva. Lo so che ero, sei distratto. Ero un po' distratto perché ovviamente voi state parlando ancora di calcio. La domenica sportiva pullula di campionati italiani che voi non potete neanche immaginare, che ovviamente state ignorando bellamente. La domenica sportiva, non la trasmissione della Rai. No, la domenica sportiva. L'Italia, la nostra nazione sportiva che si sta muovendo in questa domenica di pioggia. Volevo dirvi cose che voi avete ignorato fino a questo momento, perché state rivedendo i replay di Juve Torino, di questo derby. Scusa se ti disturbo. Infatti, Pogba ha sbagliato un gol fatto, te lo dico proprio così. Questo non è nulla in confronto alle due finali che si sono appena terminate del campionato italiano di curling. Volevo darvi un attimo onore, insomma, chi ha vinto il curling, questo ci riempie magari abbastanza. Non tutti i nostri ascoltatori sanno cos'è il curling, sono quelle pentole sul ghiaccio, delle pietre, però hanno la forma della pentola, c'è pure il manico. Adesso vi improvvisate esperti di curling? Infatti lui non capisce il tuo, ha detto pietre, che pentole, mi fate dire i vincitori o dobbiamo aspettare? Per il torneo femminile vince il 3S Luserna di Trento, che per la prima volta porta il titolo femminile fuori dal Veneto. E ci porta anche le sue belle chiappette Biava fuori dal campo, perché è stato espulso proprio adesso in questo momento. Ha fatto un fallo da dietro su Amauri, che sta rantolando nella tre quarti di attacco del Parma, ed è stato espulso Biava. Quindi il Parma giocherà gli ultimi minuti, ormai siamo al recupero in 10. Scusate, la Lazio giocherà in 10 contro il Parma. Vabbè. Possiamo tornare un attimo al curling, perché siete distratti un attimo. Figura, siamo al 45esimo, vedi tu. Complimenti. Attenzione, fermi tutti! Sempre lui! 4 gol nelle ultime 4 partite per il cileno. Al 42esimo, Juventus in vantaggio. Il destro da fuori di Vidal. Non c'ho la musica adatta, cioè capito? Non ho la musica adatta per poter festeggiare questo momento. Non c'è musica adatta. La palla è arrivata da tre quarti con Marchisio che l'ha allargata sulla sinistra e Vidal proprio a fil di palo. Mamma mia, che la colpisce di collo interno da circa una ventina di metri, quindi o meno 5-6 metri, anche 10 metri dal limite dell'area, la infila a fil di palo, proprio a filo. Sì, ecco, diciamo che il primo difensore del Torino era a 2,5 metri circa di distanza, ecco, da Vidal, quindi è un po' facile anche alzare la palla, controllarla, farsi un caffè, poi decidere dove metterla, ha avuto tutto il tempo, guardare il portiere, salutarlo. Diciamo, è stato brutto quel gesto di chiudere l'ombrellone prima di tirare, perché era seduto sulla sdraio, si è alzato, ha chiuso l'ombrellone, ha preso il pallone a tirare, quello non è stato un bel gesto, perché pioveva, mica peraltro, da questo punto di vista. Vabbè, e comunque quindi abbiamo anche questo golletto che ha messo giù il nostro Vidal, che non cambia niente, nel senso che la Juventus non ha vinto ancora lo scudetto matematicamente. No, assolutamente. Guardalo, adesso è nudo come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, suo linguaggio crudo, le trame oscure, tutta la merda piena a galla. Palla, per una palla, tu t'eri innamorata, dolcissima fanciulla, di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, compiato ed addestrato per dar calcio ad un pallone. Allora balla per me, bellina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. C'è anche il gol però annullato, della Lazio, e in fuori questo gioco. Momento fuori gioco di e non fuori... lo sai, non lo riconosci quel giocatore, non lo riconosco, non lo conosci, anche perché non ti stanno facendo vedere neanche il numero della maglietta, e quindi è uno sconosciuto che gioca nella Lazio, ecco. Non è che il tuo amico gioca a calcio con te, no. Principe azzurro, mentre si scioglie al sole come il burro. Ripensa adesso alle sue pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso, che si è rotto il guscio, il tuo pulcino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva. Ripartenze, crollano le apparenze, andiamo dita al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando, è il grande vecchio, che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me, bellina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Io mi scuso con tutti gli appassionati di curling che non sono riusciti a dare la notizia. Intanto scusati con me, prima cosa, che stavo dando dei risultati. Servizio degli ascoltatori, non cominciare. Voglio dire, adesso no. Ragazzi, del Trest e Luserna, mi scuso io in nome di tutta Dai e Vai. Sì, ricordiamo, voi siete le neocampionesse italiane di curling. Per la prima volta. Per la prima volta avete portato fuori dal Veneto, avete strappato al Veneto il titolo femminile. Non è che è andato molto distante, È in Trentino. Cioè, sì, però prima era lì attaccato. Ma sai, questi campanilismi sul curling non ti conviene toccarli. No, sono un po' così, sono arditi. Vabbè. Volevo fare anche i complimenti al team maschile che ha vinto. Sì, facciamogliele. Complimenti. Trentino curling, bravi. Un applauso. Anche se tutto il Trentino, sia maschile e femminile. Sì, hanno battuto 9-3 il curling club Cortina. Questo è notizione. Voi che non ne capite niente di curling, non sapete che il Cortina ha una tradizione nel curling. Non solo, sono quelli che la gran parte di quelli del Cortina ci hanno accompagnati nel 2006 a lanciare il curling nel mondo, in Italia. A Pinerolo in particolare, dove hanno fatto appunto anche un campo di curling, mi viene da dire, no, una pista per curling. Sì. Nel frattempo cosa hai visto di così particolarmente? C'è stata un'espulsione, perché c'è stata un'espulsione del Torino, credo un fallo su Quagliarella, doppia ammonizione, e quindi il Torino è in 10. Adesso diventano aggressivi. E va sempre a finire così. Guarda, ci sono momenti che in qualche modo poi dopo loro diventano aggressivi. Glick è stato espulso per la seconda doppia ammonizione. Quindi Toro in 10 che sta perdendo 1-0 per il gol di Vidal della Juventus. Ecco, ripetilo un po' bene. Toro in 10 per l'espulsione di Glick per doppia ammonizione. Quindi Juventus 1, Torino 0. Gran bel gol di Vidal. No, perché sei sempre così un po' parziale nel modo di raccontare. Intanto noi abbiamo lanciato questo. Abbiamo lanciato due suggestioni più che temi, no? Sì. Il primo è: ma che suggerimenti? Che cosa dovrebbe fare in questo momento il nostro ministro dello sport, Josefa Idem, che è appena arrivato? Sta pulendo un attimo, sta mettendo a posto, sta lavando i piatti, cioè che sono rimasti lì in questo passaggio, c'è il secondo gol. Doppio. La posizione è regolare, Marchisio ancora in gol nel derby. Claudio Marchisio, dopo la doppietta all'andata, mette la firma anche nella gara di ritorno e chiude il derby 2-0 per la Juve. Vidal e Marchisio, è accaduto tutto negli ultimi 5 minuti. Prima il tiro da fuori di Vidal, poi il raddoppio di Marchisio. 2-0 per la Juve, che oggi non può festeggiare con l'aritmetica il titolo di campione d'Italia, vista la vittoria di ieri del Napoli a Pescara. Certo, vabbè, adesso non stiamo qua, non dobbiamo rimangare, il Napoli deve fare il suo campionato, noi dobbiamo fare il nostro. Tra l'altro Marchisio aveva preso proprio malissimo, devo dire, però ha rimbalzato per terra ed è andato sotto la traversa, insomma, niente di particolare, però l'aveva sbucciata malamente, un gol un po' abbastanza fortunato. Hanno fatto vedere per un attimo le immagini, per la prima volta ci sono delle immagini di tensione, tensione un pochettino forse nella curva del Torino, sembrava. Curva. Sono vicini lì, la tifoseria. In una zona dello stadio, effettivamente. Perché, tanto per dire, non è lo stadio della Juve. No, è lo stadio olimpico, ex stadio comunale. Come ti avevo detto, noi abbiamo lanciato ben due argomenti, due suggestioni. Il primo era, ovviamente, che cosa chiedere a Josefa Idem, che cosa bisogna fare nello sport in questo momento, quali sono le suggestioni da dare. E la seconda è, per favore, l'appello agli interisti. Sì. Per favore, se è possibile, prendete Zenga. Sì. Subito. La risposta è stata su Stramaccioni, teniamo Stramaccioni. Esatto, da un patito interista un forte abbraccio a Stramaccioni, ti vogliamo bene, ma è tempo di pensione. Come è tempo di pensione? Quindi non a Stramaccioni, è scusa, è arrivato ieri, scusa, cioè da 12 anni, scusa, è più uscito dalla culla, cioè aveva fatto le giovanili fino all'altro ieri, scusa. Che modi sono? Adesso non è che uno è diventato già vecchio, come è un po' così l'onda lunga del paese. Diciamo, insomma. Non mi sembra che siano molto. Questo chi è? Damiano da Brescia, sul 349-238-6666. Questo è Damiano da Brescia che vuole mandare in pensione Stramaccioni. Se la pensate nello stesso modo, ditecelo. Se invece volete Zenga, ditecelo. Se volete ancora Stramaccioni, diteci anche quello, va benissimo. Se proprio volete, non è che è obbligatorio, perché anche se non ce lo dite, non è che la trasmissione ci interrompe brutalmente. Dai e vai, non è solo calcio. Che colpa ne può avere Stramaccioni se deve giocare con i Primavera? Gli interisti vorrebbero un nuovo presidente. Questo è quello che ci è arrivato al 349-238-6666. 349-238-6666. Che dove potete mandare i vostri sms. L'824-0024 invece è per mandare le vostre telefonate qui direttamente. Dai, vai, non è solo calcio. Ora, se è difficile trovare un nuovo allenatore per l'Inter, io mi immagino trovare un nuovo presidente che metta dentro tutti quei soldi che ha messo Moratti. Ragazzi, tenetevi stretto Moratti. Non erano arrivati i primi cinesi, poi adesso sono arrivati i russi. Prima o poi qualcuno salterà fuori per fare presidente. I cinesi dovevano fare lo stadio, poi i russi adesso sono entrati in realtà nella Saras, cioè la società di petroli che è gestita dalla famiglia Moratti. Magari qualcosa arriva. Ecco, scusa, aspetta un attimo, vorrei sentire un attimo Vidal. Sì, giocare la partita con Palermo e dopo di quello festeggiare come Dio manda. Com'è stata questa partita? Perché insomma abbiamo visto soprattutto nel primo tempo, nella seconda metà avete fatto molto bene, però insomma all'inizio della ripresa avete sofferto un po'. No, è una partita difficile, Toro gioca molto bene, se come si chiama, tatticamente sono forte e lo ha mostrato oggi. Come tutto lo derby sono molto difficili, l'importante è che alla fine abbiamo vinto noi. In Italia continuate a dominare, dal prossimo anno dovete fare qualcosina in più anche in Europa, lo dice anche Conte che bisogna migliorare. Sì, sempre uno deve migliorare in tutto, e noi con il lavoro che fa il mister e lo calciatore che c'è qua dobbiamo migliorare tanto per vincere tutto. Grazie ad Arturo Vidal. Ecco, qua. Arturo Vidal, molto semplice nel messaggio, efficace nel suo modo di raccontare le cose, ma soprattutto no, è stata bella la partita, ci siamo divertiti. Ne parliamo però con il nostro mister di oggi, Walter Armato Lenin Novellino. Pronto mister? Hai messo tutti i miei nomi. Non volevo fare, capito, no? Perché poi dopo sembra che voglia sottolinearne solo uno, no? Invece anche Amato noi non ci dispiace, insomma. Anche lei, non è molto, sì, capito, in questo passaggio, insomma. Partitella, insomma. L'abbiamo chiamato così casualmente, tra l'altro, su questo derby, che come le è sembrato? Ma onestamente è un po' mediocre, Perché quello diciamo noi che è noioso, ma voi non capite niente, cioè capite, invece no, sembrava... No, non è stato bello, è stato noioso, ha vinto con una grande giocata di Vidal, però secondo me il Toro poteva anche reclamare un rigore, secondo me è stato santo, sì. Quello quando è andato, mi sembra, quel brasiliano che è entrato, adesso non ricordo. Su Jonatas. Esatto. Sì, c'era la maglia che si è allungata. In realtà poi lui il tentativo di intervento l'ha fatto. Non si capisce quanto sia stato decisivo questo, diciamo. Ma la trattenuta c'è stata, perché l'ha sbilanciato un attimino, perché ce l'aveva davanti sulla gamba, insomma, il piede, insomma, la maglia l'ha tenuta, si è visto nettamente. Parliamo un po' se vogliamo parlare del campionato, però vogliamo parlare anche di quello che è successo ieri. Senta mister, lei ha rivitalizzato una squadra. Quando si dice l'intervento dell'allenatore, ricordiamo Modena che rischiava di finire in Lega Pro, in zona retrocessione in Serie B, è arrivato Novellino, ha perso con la Juve Stabia, poi una serie di vittorie, tra cui l'ultima venerdì sera che ha rovinato la festa del Sassuolo. Il Sassuolo vinceva 1-0, poi doppietta di Ardemagni, il Modena vince 2-1 con il Sassuolo, rovina la festa della Serie A e grande risultato. Sì, direi che ho anche sfruttato il lavoro di Dario, ecco, bisogna essere anche onesti, perché chi c'era prima ha lavorato bene, al di là che poi è ovvio che quando mancano i risultati paga sempre l'allenatore, però devo dire che ho trovato una squadra sempre ben volenterosa di seguirmi, di fare quello che ho chiesto. Siamo stati tra virgolette un po' fortunati venerdì sera, però alla fine meritavamo, perché avevamo più rabbia, avevamo più cattiveria. Però la festa è rimandata da Sassuolo, perché ritengo la squadra che secondo il mio punto di vista ha giocato meglio, insomma. Senta, ma adesso gli obiettivi cambiano, perché siete lì per andare nei play-off. Cambiano. Sognare non è vietato, non si paga, non è proibito, sono per il momento, però non ci sono tasse sui sogni, no, per il momento. Esatto. Io credo che perché non tentare di poter farlo, insomma. Io sono convinto che la squadra c'è, la squadra è buona, e sono convinto che possiamo sognare, ecco. Anche perché poi voi siete fra le formazioni più in forma, quindi arrivate nei playoff, non vorrei dire come l'anno scorso la Sampdoria che è partita sesta e poi è finita in Serie A. Sì, la Sampdoria devo dire che anche lei è partita non bene, poi si è andata in Serie A, però di là io penso che il problema sono i 10 punti, perché io vedo che sia il Verona, sia Livorno e sia il Sassuolo sono squadre che in modo particolare sia il Verona che il Livorno non perdono partite, continuano a vincere, insomma diventa un po' difficile, ecco. Però l'Empoli è lì e speriamo che l'Empoli regga, ecco. Però torniamo un attimo in Serie A, Serie A quasi Serie B, perché la situazione si sta un po' sbloccando. Il Siena oggi ha perso 4-0 a Roma, se la giocano Genoa e Palermo. Secondo lei chi è che vede messa meglio fra le due? Ma il calendario più brutto mi sembra che ce l'abbia il Genoa, o sbaglio adesso? Mi sembra il Genoa, solo che il Palermo c'ha la Juventus domenica, che dovrebbe tra l'altro festeggiare il suo scudetto. e speriamo che gli facciano uno sgambetto. Ecco, vabbè, allora mister, allora, cioè, allora mister, andava così bene fino adesso, ma io l'ho detto apposta. Si comportava così bene, cioè, era un piacere parlare con lei. Adesso mi mette già l'ansia in questo caso. Guardi, Juventini. No, siamo calma, mister. Non tutti. C'è chi è stato un suo tifoso blucerchiato che lei ha fatto sognare. Alla grande. Sì, vabbè, ecco, adesso. Ho rivisto la sud di Modena come la sud di Genova. Sì. Ah, però, gran bel momento. Guardi, non so se punirlo facendolo ascoltare Stramaccione, anzi, ascoltiamo un attimo. Sì, ma addirittura domenica ci aspetta il Napoli, poi la Lazio e Udinese, sono tre squadre dirette concorrenti, però sicuramente oggi l'aver perso Avie è un brutto colpo. Tra l'altro ci è fatto molto male. Sì, perché pare le prime notizie, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, parlano di rottura del tendine d'Achille, lo stesso infortunio che ha avuto Beckham, lo stesso infortunio di Kobe Bryant. È un infortunio che richiede circa 6 mesi per il recupero. Tra l'altro, ricordiamo, Zanetti alla soglia dei 40 anni, perciò... Mister, resti lì con noi, perché intanto c'è il traffico, così ripensa e si pente anche della frase che ha detto prima. Dai e vai, non è solo calcio. E ancora qui con noi il nostro mister Walter Amato Lenin Novellino. Pronto, mister? Allora, ecco, la domanda che noi abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, lei dovrebbe però anche aiutarci in questo passaggio. Prego. Perché lei è anche un po' saggio, non è dedicata solo al calcio, è dedicato allo sport. Abbiamo un nuovo ministro, un suggerimento. Alla grande. Ecco, un nuovo ministro che, diciamo, sportivo lo è, come dire, no? Sì. Tra virgolette, forse è il ministro più sportivo che Ma è il ministro più sportivo che c'è, secondo me è nel posto giusto. Ecco. Nel posto giusto. Allora lì può incontrare il ministro, a un certo punto le si chiede appunto, ma una cosa, da dove partire in questo caso, se c'è da rinnovare, se c'è da cambiare, da verificare. Da cambiare, direi, ecco, di fare gli stadi nuovi, tra virgolette, di dare la possibilità alle società di poter usufruire della capacità di fare gli stadi. Quindi, nella sostanza, per rinnovare, per cambiare anche l'economia del calcio in questo passaggio. Esatto, così fa far lavorare anche tante altre persone. Quindi si può entrare. Ecco, la seconda domanda che noi abbiamo fatto è che i nostri ascoltatori, tra l'altro, hanno preso in maniera un po' così, no? Un po' confusa per certi versi. Noi abbiamo detto, allora, Stramaccioni, cosa ne facciamo? Volete Zenga? Non volete Zenga? E qualcuno ha detto no, deve andare via il presidente, con una confusione che in qualche modo inquadra anche un po' la confusione che c'è nel paese, nel senso che trovare un altro presidente che metta tutti quei soldi, lo voglio proprio vedere dove si trova. Però ecco, in questo caso qua, l'Inter che deve fare? Beh, intanto deve tenere il presidente, perché come hai detto. Io credo che è un presidente che ha speso tanto e che poi è innamorato dell'Inter. Sì. Non dimentichiamo che oggi ho visto un'inquadratura della signora Moratti, molto triste. Insomma, cambiano tante cose, tante situazioni. È ovvio che il periodo non è bello in Italia a livello economico. E puntare sui giovani, perché non dimentichiamo che l'Inter ha tantissimi giovani importanti sulle altre squadre. Richiamare un attimino sti giovani, anziché andare a spendere dei soldi per esempio, io faccio un nome solo e non me ne voglia, Pereira, 14 milioni di euro, cosa c'entra? Insomma, certo. Ci sono tanti giovani. Quindi così senza per dire un suggerimento anche all'Inter, anche se non è la persona più adatta per dare suggerimenti alla Juventus, intendevo, Ibrahimovic lasciamo lì dov'è. Ma io credo che Marotta non è uno stupido, l'ho avuto 7 anni e lui sa benissimo come gestire una... E poi c'è Ibrahimovic, che è un giocatore che d'altronde pretende tanti soldi, al di là della bravura del calciatore. E poi, ecco, non so se rimane inquadrato come vuole la Juventus, certo. Perché è un po' particolare. Insomma, sì. Grazie mister, una buona domenica. A risentirci. A voi. A e forza. No. Forza? No. Forza? Forza Toro. Ma non come Toro. Vabbè. Sì, ma oggi va bene, forza Toro, va bene. Forza Modena. Grazie. Forza Modena. Grazie mille, mister. A presto. Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Di mercato c'è chi se ne occupa, sanno le mie idee, quindi però l'allenatore adesso sta con la testa nello spogliatoio sulla squadra, 4 partite alla morte, poi si vede. Va bene, grazie Stramaccioni. Naturalmente in bocca al lupo per i giocatori da recuperare in questa settimana e per l'esito degli esami del capitano Zanetti, e buon lavoro, davvero. Ecco, vabbè, quindi quello che... Adesso tra l'altro si scatenano anche dei commenti, cioè, ci suggeriscono anche i pezzi musicali. No, ragazzi, non si può, ve lo dico, cioè, qui a Radio, non si può a Radio 24 suggerire i pezzi musicali, va bene, sia ben chiaro, deve essere molto chiaro da questo punto di vista, e quindi teniamoci quello che noi abbiamo. Stavamo però sentendo un pezzo musicale per cui valeva la pena ascoltarlo, no? In qualche passaggio. Una cosa che si sblocca Pogba, sì. Ma ha sbagliato una quantità di gol fatti. Vabbè, uno ne ha sbagliato. Adesso l'hai visto uno, poi dopo ne ha sbagliato un altro, poi vicinissimo alla porta. Che ma non è il suo lavoro. Non è il suo lavoro fare i gol. Lui deve fare filtro a centrocampo, costruire, metterci il fisico, i gol. Li deve fare Vucinic che non ma segna. Se ci metti qualcosa di tuo, no? È meglio. Sì, quello sempre, comunque. Ecco, vabbè. Che è successo? Ecco il fallo, stanno facendo rivedere in questo momento Sky il fallo di Bonucci su Jonatas, che poteva essere il rigore, il risultato era 0-0 in quel momento. No, ricordiamolo, perché accendi gli animi. Dai, avanti, accendi gli animi, cioè, hai capito, no? Cioè, crea subito proprio il problema, crea la polemica in questo caso. Avevo ragione, toro matato. Saluti a mister Novellino. Ci dice che c'è anche un Alfredo in mezzo. Sì, Walter Alfredo Amato Lenin Novellino. Esatto. Abbiamo detto tutti. Sì, in realtà molti lo chiamano Walter Alfredo Novellino, restringendo, invece Amato Lenin non lo dice quasi nessuno. Noi abbiamo tolto Alfredo, abbiamo messo Amato Lenin, perché la trasmissione dura, ricordiamolo, fino alle 18. Non è che potevamo fare tutta la trasmissione solo sul dedicato soltanto sul nome. Novellino. Tutte le volte che dovevamo presentarlo, tra l'altro, diventava una cosa abbastanza lunga. Possiamo fare un riepilogo in attesa di Conte, che potrà dirci delle cose fantastiche, tipo faremo 4 partite che saranno 4 finali. No, l'Inter, quello l'ha detto Stramaccione. No, faremo 4 partite, basta un pareggio col Palermo, sì. E abbiamo vinto. Sarà una partita della vita, quella di domenica prossima contro il Palermo. Vabbè, il Genoa ha vinto perché è stata un'impresa quella di vincere questo scudetto, capito? Soprattutto è stata un'impresa vincere il derby 2-0. L'impresa è stata l'anno scorso, ho detto francamente, quest'anno c'era nessuno. La consueta promenade della Juve su questo campionato. La Juventus ha vinto il derby 2-0 con i gol di Vidal e Marchisio. Il Genoa ha battuto il Chievo 1-0 col gol di Boriello. Palermo-Inter 1-0, il gol è stato segnato da Ilicic. L'unico pareggio di oggi pomeriggio, Parma-Lazio 0-0. E poi diciamo le due goleade, quelle della Roma sul Siena 4-0 con tripletta di Osvaldo e gol di Lamela, e quello della Fiorentina sulla Sampdoria 3-0 con gol di Cuadrado, Liaic e Aquilani. Un pensiero al gol di Lamela. No, io un pensiero a gol di Lamela, bello. Te lo ricordi? Bello, sì, cioè, sì, bello, bello. Pallonetto di Totti più o meno dai 30 metri che va a scavalcare la difesa, entra Lamela e al volo la mette alle spalle. Proprio stava per arrivare per terra, sì, la palla, lui la prende al volo e la butta dentro. Veramente un golletto, niente male. Grande palla anche quella di Totti, che ha proprio scavalcato tutta la difesa che era schierata del Siena. Però Totti siamo un po' abituati. Sì, ma anche Lamela fa dei gol mica indifferenti. Sì, però insomma, non sono abituato. Io alla Mela quei gol. Un pensiero ai festeggiamenti di Ljajic sul gol del 2-0 a Firenze? Sì, vogliamo farlo anche quello un pensiero, cioè che modi sono, comportati bene. Ricordiamo che Ljajic per la prima volta incontrava Delio Rossi, con cui erano venuti alle mani, più Delio Rossi su Ljajic, quando Delio Rossi ricordate era... quello che era preso a cazzotti. Sì, l'aveva preso a cazzotti, insomma, l'allenatore, insomma. E dopo il gol si è avvicinato alla panchina della Sampdoria, ha fatto indicativamente un segno di stare zitti, non si capisce bene se a Delio Rossi, se ai giocatori della Sampdoria. Comunque le telecamere hanno inquadrato lui mentre faceva questo segno. Poi tra l'altro questa poca intelligenza dei calciatori che fanno i segni pensando di non essere visti, ci sono 7000 telecamere che riprendono tutto. O forse l'ha fatto proprio per quello. O forse, dici? Non lo so, cioè, per certi versi insomma. Comunque ha fatto questo segnale. Finiamo intanto per quanto riguarda la classifica. La Juventus ha 80 punti, è un punto dalla conquista del scudetto. Il Napoli a 69, la Fiorentina supera il Milan, va a 61 punti, però il Milan che è a 59 giocherà questa sera con il Catania. 55 punti per la Roma, 54 l'Udinese, 53 l'Inter, 52 la Lazio. Il Catania che gioca questa sera col Milan a 48 punti, il Cagliari è a 42 punti, a 40 punti ci sono Bologna e Parma, a 39 Atalanta e Chievo, 38 la Sampdoria, 36 il Torino, 32 Genoa e Palermo, 30 il Siena e 22 già retrocessa il Pescara. E questa è la classifica. Devo essere sincero, mi si è rotta la voce sul Pescara, sì, retrocesso, sul Pescara retrocesso, perché fa sempre male la retrocessione, sì, della serie. Detto francamente, ne ha azzeccata una, qualche partita poteva anche azzeccare. Il Pescara ha fatto due punti nel girone di ritorno, in tutto il girone, sì, di ritorno. Adesso non avere questo atteggiamento qua che a me non piace. Ora, interessante il fatto che Sky ci faccia rivedere tutta quanta la partita della Juventus. Stanno aspettando Conte, non perché stanno aspettando Conte, quindi questo di per sé non è particolarmente una cosa interessante. Bella da affrontare, però ci vanno vedere tutte le azioni possibili e immaginabili, anche quelle che tra l'altro due o tre volte, anzi adesso c'è il fermo immagine per prendere anche del tempo nel frattempo, quindi ne approfitto di questi fermi immagini per darvi un aggiornamento dalle Bermuda. Cosa succede lì alle Bermuda adesso? Al St. David's Cricket Crab Ground. Stiamo parlando di cricket. Cricket, sì. Cioè noi adesso c'è la Juventus che sta vincendo lo scudetto. Ma sta arrivando Conte, diamo un attimo spazio. E tu mi stai parlando di cricket in mezzo alla Juventus. Ai nostri ragazzi azzurri che stanno sudando in quel delle Bermuda. Cioè, ci stiamo giocando la permanenza nella terza divisione della World League. Cioè è un momento delicato. Esatto, tu mi insegni che le divisioni della World League di cricket sono tante, più di tre sicuro. Noi siamo nella terza, quindi dobbiamo cercare di risalire alcune posizioni. In questo momento stiamo giocando la prima partita del girone contro l'Oman. Contro l'Oman. Sì, il girone è composto oltre che da Italia e Oman anche dalle Bermuda, il padrone di casa, gli Stati Uniti, il Nepal e l'Uganda. Nepal. Da quanto io posso capire di risultato di cricket, mi sembra che si stia vincendo. Perfetto. I ragazzi all'inizio hanno approcciato bene la partita. Quindi siamo sereni, insomma, da questo per punto ora di possiamo vista. Rimanere sereni. Vabbè, comunque, questo già ci riempie di gioia. Io non pensavo che in qualsiasi sport mondiale l'Italia potesse affrontare il Nepal. Cioè, devo essere sincero, credo che sia la prima volta nello sport che l'Italia affronta il Nepal. Del cricket. Ma no, ma in generale, ma anche nella pallacanestro. Ma no, secondo me. Ma che sport fa il Nepal? Nepal, scusa. 20 km di marcia in montagna. Sì, non quello so, sì. Se non lo so, cioè, non è che posso inventarmi, sicuramente. Posso però anche inventarmi degli sport che c'è nel Nepal. Però nel Nepal, tu adesso lo stai un po' sottovalutando. No. C'è un sacco di sport, tra l'altro. Sì, ci sono un sacco di squadre da questo punto di vista. No, voglio dire, tra l'altro anche Cuadrado, per esempio. Quanti gol sta facendo nel finale di questo campionato Cuadrado? Cuadrado bene, sì, bene, bene. Infatti mi pare 3, anche perché c'è il fantacalcio, quindi me lo ricordo distintamente, no? Non sapete quanto sto sudando io nelle Bermuda a causa di questi primi caldi. Credo che ci sia battuta sulla questione dei Bermuda, però vabbè, facciamo finta di niente. Veramente sta piovendo ovunque, adesso non vorrei dare questa notizia. Sai cos'è che ci salva? Da questo punto di vista. Ci salva solo una cosa, per fortuna. Ci salva la pubblicità, grazie. Dai e vai, non è solo calcio. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. And the future is certain. Give us time to work it out. Posso cantare. No, beh, certo, hai vinto il derby, adesso sei qua che canti. Ringrazia che ho lasciato di là, come dire, sì, la fisarmonica. Il pile bianco-nero, perché proprio serviva la copertina, poteva essere sempre utile. Però parliamo di altri sport, parliamo di Olimpiadi, no? Snowboarder. Esatto. Il nostro snowboarder italiano, in questo caso, che deve andare a Sochi, Roland Fischnaller, ecco, che è qui con noi al telefono. Ciao Roland, come va? Ciao ragazzi, tutto bene? Tutto grazie. Bene, e allora tu devi andare a Sochi, è già questo, come dire, noi ti invidiamo, no? Ti invidiamo tantissimo, nel senso che anche noi vorremmo essere a Sochi, però tu ci vai per ovvi motivi, perché le hai guadagnate ovviamente sul campo o sulla pista, insomma, in qualche modo. Diciamo, no? Che Roland Fischnaller ha vinto la Coppa del Mondo Generale nella stagione 2011-2012, poi ha avuto un argento ai campionati mondiali nel 2013, due bronzi, cioè è uno degli atleti di punta non soltanto a livello italiano ma a livello mondiale, cioè, nello snowboard. Si va a puntare alla medaglia, diciamolo. Sì, quello sicuramente è il mio obiettivo grande per l'anno prossimo, per la prossima stagione a Sochi, alle Olimpiadi, quello sarebbe il colmo della mia carriera. Adesso con un gruppo di amici sto andando. Tu adesso però stai andando a Sochi in una maniera un po' particolare, Roland. Cioè, nel senso che tu hai deciso di arrivare a Sochi in bicicletta, giusto? Sì, giusto. Siamo partiti oggi stamattina a casa mia in Val di Funes. E adesso siamo partiti in tre. Io col mio compagno di squadra e mio allenatore. Sì. E adesso siamo a Dobbiaco. Già. Sì. E qua incontriamo un amico austriaco che ci segue andando fino in Russia. Oggi andiamo ancora fino a Lienz. Roland, te lo stai raccontando come se tu attraversassi, stessi andando così a fare la spesa. In realtà da dove tu sei partito, Val di Funes, fino a Sochi, quanti chilometri sono? Sì, sono 3.000, non è una passeggiata. No, perché tu lo racconti come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo. Cioè, nel senso, vado a prendere il latte e poi torno. Scusate, ci metto un po' di tempo. No, non è così. 3.000 chilometri in bicicletta stai andando a fare, no? Giusto? Sì, 3.000 chilometri in bicicletta, poi in tutti i paesi, sai, che non conosciamo. Noi questi paesi dove nessuno di noi è mai stato, e per quello una bella avventura che ci piace. Abbiamo dietro solo un furgone che ci porta ogni tanto qualcosa da mangiare, facciamo un po' di campeggio fuori vicino alla strada, ci cuciniamo la buona pasta e poi continuiamo a pedalare. Ecco, cosa avete messo nel furgone per essere che cosa si porta per fare 3.000 km in bicicletta? Abbiamo portato quello che c'è di più, ci sono le latine di Red Bull, quello abbiamo tanto, quello ci serve, sì. tanta certo. energia. E poi tanta pasta, tanto tonno, pezzi di ricambi della bici, sì. E basta. Più o meno quanti chilometri al giorno farete? Sì, faremo da 160 ai 220, intorno lì. 160 200 chilometri? 220 hai detto? 220 chilometri. Sono le tappe che fanno i ciclisti del Giro d'Italia normalmente. Sì, noi sai, nelle gambe, meno male per lo sport, ce l'abbiamo anche la forza per le gambe, solo il nostro problema è un po' il sedere, sai? Quello sì. Non siamo abituati. Non hai calli, insomma. No, quello no. Avete previsto qualcosa per affrontare questo problema dal punto di vista tecnico? Sì, certo, la crema dei bambini, sai, quando fanno il cambio del pannolino. Certo. Avete un sellino particolare? No, quello normale da bici da strada. Quello da bici da strada, insomma. Ho capito, vabbè. Chissà se basta però, la crema crema per bambini. Cioè, non vorrei metterti un po' di ansia. No, ma dai, non puoi gufargliela così. No, perché magari... O magari un pannellino. Ecco. Magari porti anche via... Ecco, però porti via direttamente anche il pannolino al bambino. Senti, Rola, fra voi tre, qual è quello che spinge gli altri? Cioè, quello che trascina di più dal punto di vista della motivazione? Siamo tutti quattro molto motivati, siamo tutti quattro buoni amici e per quello, sai, uno riesce a motivare l'altro quando c'è un po' di crisi. Ecco, ma fammi capire, Roland, ma lo fate per motivi sportivi, e questo sicuramente, perché facciamo per motivi tipo di vacanza, insomma, tra amici? No, no, questo non è una vacanza. Infatti, mi sembra. No, è più la voglia di avventura, sai? Per scoprire nuovi posti, sai, poi andando in là, questi paesi, con la bicicletta vedi il posto molto migliore che come passi con la macchina a 150 all'ora. Quello che ci piace tanto, sai, riesci a vedere posti nuovi, incontrare gente nuova, e quello è molto molto molto bello che ci piace. Sì. Tu hai già ci fai un attimo, cioè, hai ben chiaro, no, il tragitto, no? Gli stati, sì, che attraverserete, quali sono? Sì, attraversiamo, facciamo 7 paesi, poi facciamo Slovenia, un pezzo Croazia, poi Romania, Moldavia, Ucraina e Russia. Ah, quindi state abbastanza alti, non passate dalla Grecia alla Turchia, arrivate no, da no, sotto. No, alti. Ecco, dire Russia, sì, però così facilmente non è proprio come dirlo, cioè non è così semplice, in realtà il tragitto è molto lungo, cioè nel senso, poi sì, quando arrivate in Russia. Certamente. Perché voi dovete andare però giù. Però in Russia facciamo solo il lungomare praticamente. Sì. Certo. Lungomare, Sochi è una città bellissima sul mare, dove eravamo già l'anno scorso a fare le gare. E com'erano queste gare? Era tutto pronto? No? Sì? Sì, c'è tantissimo cantiere ancora. Ah, ecco. Sì, e poi adesso andiamo a vedere cosa hanno costruito già in questi paio di mesi dove eravamo noi. Ecco, senti Roland, durante il test event proprio dello snowboard ci sono state le proteste per il caldo, le piste che non erano pronte. Tu c'eri in quel, o hai saputo qualcosa? Sì, certo. Certo c'ero. Una gara dove quello che dovevamo fare noi, il gigante, abbiamo fatto, e il slalom l'hanno cancellato perché erano 18 gradi. Quello non ha più proprio da fare niente con i normali. Era proprio nel mese dell'anno prossimo, cioè a febbraio, quando saranno le Olimpiadi. Sì, e quindi questo è un problema. Ma perché normalmente loro hanno detto questa è la prima volta che c'è così poca neve in questo periodo. Però penso che in una certa maniera riescono a farlo. E io sicuramente sono lì molto motivato, pronto di dare il mio meglio e battere per le medaglie, e magari con questo viaggio in bici ho già quasi una marcia in più a confronto ai miei avversari. Arriverete a Sochi quando? Arriveremo a Sochi in 17 giorni più o meno. Ah, beh, 17 giorni. Beh, sì, giusto, 3000 chilometri. Oggi ne abbiamo 28, quindi attorno al 12-13 di maggio, giusto? Sì, intorno lì. Sì, quindi poi avete anche tempo di festeggiare poi lo scudetto anche della Juventus. Sì, sì. Ah, che squadra tieni, Rola? Segui il calcio? Sì, seguo il calcio. E molto. Tifi? E tifi per? Poi tifo per il Milan, perché il capo dei dottore era una volta il mio dottore, una volta Tavana. Ah, Rodolfo Tavana, certo. Rodolfo Tavana, sì. Sì. Ah, per quello tifo tanto per il Milan. L'ho e capito. Guardo, ogni tanto riesco a vederlo in televisione, e poi recanto le mie amici. Ah, questo era una volta. quindi fai un po' il ganassa in giro. Roland, sì, sì. Tante belle cose, auguri e buon grazie viaggio. Mille. Grazie. Grazie mille. Buona pedalata soprattutto. Sì, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ci sentiamo. Vuoi sentire Montella? No, preferisco la musica. Vuoi sentire Montella? No, Police on my back. Vabbè. Sicuro? Sì, vabbè. Sì. Guarda che se vuoi lo interrompo, eh. Vabbè, allora sentiamo Montella. No, voglio sentire Montella. L'aeroplanino che ci ha battuto 3-0. Ma dai, dai, aeroplanino. Sei matto? Ma dai, aeroplanino, dai, no, guarda, guarda com'è felice l'aeroplanino. Ma assolutamente, guarda. No. E i giocatori stessi, comprare giocatori di, non da costruire, ma giocatori di primo livello, altrimenti è difficile fare l'ultimo salto o poterti avvicinare alle squadre di prima fascia, perché noi siamo una società che conosciamo benissimo la nostra dimensione. Quindi, e trova la, la proprietà concorde con lei su questo, su questa disamina così semplice e lineare. No, non ti dispiace, no? No, no, no. Ma cosa fa intanto Conte? Conte no, Conte sta festeggiando lì, sono... Ma cosa sei da festeggiare? Chi non salta un granata? Uè, no, uè, no, festeggiando che cosa? Cioè, vabbè, quasi scudetto fatto. Ma contro il granata, no, ma lascia stare. C'è una cosa, una domanda io vorrei fare a Montella. È una domanda, cioè, ma che dentifricio usa Montella? Guarda che hai dei denti bianchissimi, ma che roba. Scusa, sì. Ma che denti Luca, bianchi Luca, che ha Montella? Non ti dispiace se metto la musica? No, no. Cancellara, come sta andando il cricket? Allora, sempre grazie. E che mi piace talmente questo pezzo che lo sentirei fino in fondo, hai capito? No? Invece purtroppo dobbiamo interromperlo qua e là. Purtroppo. È vero Luca? Purtroppo. Tra poco il traffico. Dai e vai. Non è solo calcio. Come faccio a dirglielo ad Anna? Cioè, tutte le volte, perché non vorrei... No, ma con gentilezza, no, Sergio, con gentilezza. Ma cosa vera? Gente, certo, con Anna non posso che essere gentile. E che lei poi dopo rimane un po' male, è delusa. Cioè, non so come dire che sono juventino, che tifo per la Juve. Cioè, no, secondo me ti rosica. Perché un lei po', ci manda un SMS e dice, sbaglio o vi rosica che la Juve abbia vinto? Ecco, allora, o noi non riusciamo a dare un messaggio, o il messaggio è confuso, oppure è arrivato Conte, e quindi ci salviamo da questa situazione. Pronto? Niente, possiamo parlare pronto. Sì. Eccolo qua. Ho parlato di immagini da copertina. Allora iniziamo da questa, dall'esultanza di Vidal, per capire se si tratta soltanto di un'esultanza, insomma, che significato ha, se è quasi un giuramento. Vidal che viene a sbattere il petto contro di lei. Beh, non mi sembra nel caso. Ma innanzitutto, prima di parlare del derby, mi auguro che per Zanetti, per Savier, non sia niente di brutto, ecco. Mi auguro che magari sia stata una distrazione al tennis e non una rottura, perché sarebbe una cosa molto grave. Sono quei giocatori, Zanetti così come Milito, che hanno scritto la storia, hanno fatto grandi cose in passato, hanno vinto il triplete, quindi da parte mia c'è sempre grandissima e massima considerazione nei confronti del calciatore e dell'uomo. Mi auguro veramente che Savier non sia, ecco, quello che gli hanno così pronosticato, ecco. Me lo auguro e gli faccio i migliori auguri a lui e ribadisco ancora gli auguri a Milito. Bravo, ecco, Conte, bravo Conte. Nel frattempo ricordiamo che noi intanto interromperemo la nostra trasmissione alle 18 per dare la linea ovviamente al GR, alle informazioni e alle notizie sulla giornata di oggi, che è stata densa di notizie, di fatti spiacevoli e di qualsiasi genere, e quindi in qualche modo c'erano approfondimenti. Nel frattempo, ecco, facciamo un quadro sulla situazione di Zanetti. Stramaccioni nelle interviste ha detto che c'è una lesione al tendine d'Achille. Zanetti rientrerà con la squadra in aereo a Milano e l'esame, ossia la risonanza magnetica per valutare se effettivamente c'è rottura del tendine d'Achille come si suppone in base all'incidente, verrà fatto a Milano. Sono gol pesantissimi, perché è inutile dire che adesso manca un solo punto per la matematica certezza. Dai Tony, lasciati andare, presupponendo, ecco, che il Napoli le vinca tutte quante. per festeggiare un secondo scudetto con... Vabbè, nel frattempo, mentre intanto Conte cerca di sbrinarsi un po', perché beh, ma un non po'... ce la farà mai. No, adesso in questo momento è ancora un po' così, no? Impettito su se stesso, insomma, di questa cosa. Andiamo invece a parlare direttamente con l'Alberto Frison Fan Club. Alberto Frison Fan Club. Di che cosa stiamo parlando? Perché, perché diventa veramente difficile. Stiamo parlando di Alberto Frison, che è il secondo portiere del Catania, che farà il suo esordio questa sera in Milan-Catania, perché Andujar, che è il portiere titolare, è stato squalificato, una giornata di squalifica dopo l'espulsione di domenica scorsa, e quindi Frison esordisce a San Siro, nella scala del calcio, come si dice, certo, Milan-Catania, e c'è un fans club che l'ha seguito proprio da Scorzei, vicino a Treviso, in Veneto, fino qua a Milano, proprio solo per lui. Non è che viene a vedere il Catania, viene a vedere Alberto Frison. Ne parliamo con Davide Pamio. Pronto Davide, pronto, ci senti? Buonasera ai miei ascoltatori. Ciao Davide, senti, allora siete partiti. Vai. Eccoli qua. Ma quanti sono questi del fans club? Ma siamo in 46 questa sera. 46, quanti sono i parenti? I parenti sono una decina, e cioè, tanti gli amici. E tanti amici, quindi vabbè, insomma, voi avete deciso di partire quando? A che ora siete partiti? Ah, siamo partiti alle 14.30 dal nostro paesino. Sì. E adesso ci troviamo a Milano in tangenziale e siamo quasi arrivati. Sì, vabbè, un attimo adesso, non c'è problema. Senti Davide, voi avete sentito Alberto? Al telefono? Sì, l'abbiamo sentito in settimana. Ah, sono in settimana. È carico, teso, com'è? Diciamo che è carico, sai, poi lui sa preparare la partita, noi sappiamo bene che lui ci sa fare in questi frangenti. Sì, ho capito, ma c'ha Balotelli e Sharawi davanti, non è che c'ha Emegara e Calaiò, cioè non è facile questa partita. Lui non ha paura di nessuno. No? Sei sicuro? Assolutamente. Tra l'altro Sharawi lo conosce dai tempi del Genoa. Quindi erano già amici, insomma, in questo caso. Senti, per i nostri ascoltatori, Davide, che non conoscono Alberto, qual è il punto forte di Alberto come portiere? La presa alta, il coraggio. Il coraggio. Vabbè, ma se suggerisci. Solo che Frosinone lo chiamavano l'uomo ragno. L'uomo ragno. Ah, ho capito. Vabbè, insomma, sono quelle cose belle. Diciamo che è un portiere completo, ecco. Sì. Un portiere completo. Ma poi ogni volta che lui gioca al nord, cioè fa queste esplosioni, o soltanto per la scala che avete deciso di partire e venire qui in massa? Ma noi abbiamo deciso da domenica pomeriggio, quando abbiamo visto l'espulsione di Andujar. Subito organizzare. Fare un pulma e siamo partiti alla grande. Sì. E man mano ci sono aggiunti degli amici, così abbiamo fatto. Sì, voi a parte l'esultanza che avete subito proiettato nel momento in cui Andujar è stato fatto fuori, espulso. Tra l'altro a partita finita, quindi. Tra l'altro veramente imbarazzante. Ma all'interno del vostro fans club, sono tutti tifosi del Catania? No, ci sono tifosi del Milan. Nessuno. Neanche uno. Simpatizziamo per il Catania, però le nostre fedi calcistiche sono un po' mescolate. Quindi è il primo fans club misto, come si suol dire, in questo passaggio. Sì, noi lo seguivamo già a Vicenza, certo. Allora eravamo più comodi, sai, con il Catania, certo, un po' più difficile. Allora aspetta un attimo, chi tifa Milan lì? Io per esempio sono tifoso del Milan. Ma dai, ma scusa Davide, sì, ma questa sera ho un conflitto di interessi. È sì, un momento difficile questa sera, non so come potrei farcela. Sì. Senti Davide, qual è il coro che farete per far capire ad Alberto che ci siete? Ci sarà un coro? Alberto Frison. Mi prende un po' lo sprovvisto. Vabbè, allora ragazzi, preparatevi, mi raccomando. Ciao Davide, saluto a tutti. Friso. Grazie, ciao. Grazie a voi, buona serata. Anche a voi, ci risentiremo ovviamente presto. Nel frattempo, intanto, mentre finalmente c'è un Conte, no, in questo caso. Un'alternativa anche a volte. No, è triste, magari... io non riesco. Cioè, batti, no, ma è serio. Ma è batti serio, il Torino, non puoi andare lì e avere quest'aria così triste, cioè, hai capito, no? Non è triste, è serio. No, dire, guarda, è veramente triste, guarda. Lo so. Io nel frattempo, guarda, faccio una cosa. Fabio Cantadori lo ringrazio adesso. Fabio Cantadori, grazie. grazie che, Fabio. Grazie Fabio che ci hai guidato il mixer, certo, e queste cose qua. Giorgio De Luca, lo saluto anche adesso. Luca, grazie Giorgio, grazie Cricket Giorgio. A posto Luca Cancellara? Secondo me stiamo ancora vincendo. Ne parleremo comunque questa sera alle 22, insomma, direttamente. Luca Gattuso, tu ci sei stasera? Sì, ci sono. Cioè, Sergio, ci sei? Sergio Ferentino? Assolutamente, saremo qua. Assolutamente. Ricordiamo che noi non andiamo avanti perché fra un po' ci sarà lo speciale per i fatti di Palazzo Chigi, il giuramento al Quirinale, ma soprattutto la sparatoria che c'è stata oggi davanti a Palazzo Chigi, dopo il GR dalle 18 alle 19 qui su Radio 24. Nel frattempo Conte. No, nel frattempo c'è abbiamo Conte, sì, Conte qua davanti, sì, perché sì, sennò sì, sembra quasi che ce ne stiamo andando via così senza voler. No, tu non vuoi ascoltare Conte. No, ma è triste. In questo momento Pogba mi sembra il giocatore più in forma che hai nella rosa. Sai Luca, sai cos'è il ritmo che mi piace di Conte? Da che non c'era la domanda. Deve cercare di far quadrare i conti cercando possibilmente di far giocare i migliori della rosa. Pogba ha avuto una crescita. Far quadrare i conti, ha detto. Sì, a far quadrare i conti. E tenere anche, uno dei anche ad Amico, fuori, l'amico se ne accorda la battutona. Sì, mi dava fastidio, mi creava dei problemi. Adesso abbiamo trovato questa formula, però una formula che non rinnega i due attaccanti, anzi. Però sono contento perché comunque... Posso dirti che lui all'inizio, l'anno scorso, quando veniva a fare le interviste, sorrideva, faceva le battute con Mauro, capito, in queste cose qui. Sai, quando non hai nulla da perdere, l'anno scorso la Juventus non è che dovesse vincere lo scudetto, si sapeva poteva fare un buon campionato. Scusa, spiegami che cosa c'ha oggi da perdere Conte, scusa. Lascia stare. Mi sfugge. Vedi che sorride adesso. Finalmente. Ma ti dispiace? Verifica sul campo giorno dopo. Mauro che la prende in giro. Non aver dato tranquillità a tutti i tifosi del Torino. Cioè? Ma in che senso? Ecco. Nel senso che un pareggio forse sarebbe stato meglio per tutta Torino. No? Sì, ce lo vedi Conte che fa questo ragionamento? No. Ma sai Massimo, alla fine noi siamo uomini di calcio, quindi secondo me voleva dire un'altra cosa. Cioè con me è l'unico, cioè io forse sono l'unica persona con cui non dovete fare questi discorsi. Si è arrabbiato. Era per il fatto che tu vivi a Torino, che hai fatto derby. Noi scendiamo in campo per vincere, sì, non facciamo calcoli. Io l'ho sempre fatto nella mia vita. È andata molto dura, molto difficile. Tra l'altro ricordiamo la squalifica di Conte all'inizio della stagione, perché ha fatto una gaffe Mauro, che sia partita con le ruote sgonfie, perché non dimentico mai che 4 mesi di squalifica gratuita rimarranno per sempre con una ferita, uno squarcio, ecco, nel cuore. Certo, posso dirti una cosa? Cioè, Mauro cercava di, nella nostra logica, nella nostra filosofia, cercava di sbrinare Conte. Ha fatto una gaffe di quelle mostruose, esatto. Cioè di quelle veramente. Parlare di Pastetta, uno che è stato squalificato per combine calcistiche, cioè, per 4 mesi. Mia, ma non ha detto Pastetta, ha detto, vabbè, dai, 1-1, che te frega. No? Cioè, vediamo, ma sai, Ilaria, quando ero squalificato, cioè, comunque c'ero, ci sono, no, come no? Ci sarò. Ci sarà, ma sempre. Come no, lo sappiamo. Bravo Antonio. Conte si goda questa settimana. Vabbè, la D'Amico è riuscita a salvare la situazione in maniera proprio veramente rush finale da questo punto di vista. È stata veramente faticosa da questo punto di vista. E vabbè, niente di fatto per il momento. Tutti quelli che hanno seguito ovviamente la nostra trasmissione sanno tutti i risultati. Sì. Gli altri non lo sanno, ovviamente, perché non hanno seguito la nostra trasmissione. E ogni tanto parte anche il Bahrain, cioè, non so, così, cioè, ci sono dei momenti tristi che non si sa bene che cosa mandare, ogni tanto parte anche quello. Ricordiamo, guarda, che Dai e Vai torna stasera alle 22, dalle 22 alle 23, fra poco lo speciale qui su Radio 24 alle 20:45 Milan-Catania. È solo un gioco, ma... Non mi dire così, per favore, è la cosa peggiore, la più stupida che uno potrebbe dire. Perché mi sembra evidente che non sia soltanto un gioco. Sì, insomma, se lo fosse, pensi forse che me ne fregherebbe così tanto? Eh?